insieme alle paure alimenta con gli inganni quella strana convinzione che serve sempre andare. dal sole, rubato dai passi. Thank you. resti il profumo sciolgono, copro e colorano le dune insieme ad alberi, germogli e fiori e fiumi nascono ed io non so se più sogno o realtà, chissà.